4 mattino. E si ritorna agli stupri. Anche oggi un'altra storia che dobbiamo raccontare. Sono vicende incredibili perché a ripetizione, o prima non avevamo notizia, e questa è una delle ipotesi, oppure anche questa vicenda di oggi, la dottoressa violentata, ce lo racconta La Stampa, a Catania, 26enne, arrestato mentre inseguiva la vittima, un vicino ha dato l'allarme, gli abusi sono durati ore. Oppure anche questa vicenda di Catania è come la punta di un iceberg. Allora subito il racconto, Fabio Albanese, da Trecastagni, Catania, sulla Stampa. Gridava aiuto, è stato subito chiaro cosa stesse succedendo. Sebastiano Crimi abita di fronte alla guardia medica di Trecastagni, fino a ieri tranquillo paesino dell'Etna, piombato ora nell'incubo di uno stupro che scuote la coscienza di tutti. È stato lui, svegliato nel cuore della notte dalla moglie, a intuire e a dare l'allarme al 112. Dentro l'ambulatorio, un 26enne, Alfio Cardillo, subito arrestato, stava violentando la dottoressa, 51 anni, madre di due figli, finita sotto shock in ospedale. E sapete qual è la cosa che vi aggiungo io, uscendo dalla lettura, che ha più turbato questa dottoressa? Che quando è andata a fare la denuncia, l'appuntato che prendeva la denuncia le ha detto: beh sì, capisco, essendo lei una bella donna. Questo l'ha ferita tremendamente. E poi sempre sulla Stampa: io, stuprata dal mio fidanzato, non riesco più a innamorarmi. Il dramma di Marianna, avevo 22 anni, mi fidavo di quel ragazzo, racconta Laura Sabbadini. Ho ricominciato a vivere quando ne ho parlato con le mie amiche. Quindi il trauma, la violenza, ma anche il trauma psicologico. E su Avvenire un approfondimento, Viviana D'Aloiso: l'Italia e gli stupri silenziosi, 9 casi su 10, niente denunce. Bene. Questo è il racconto del paese, ma adesso andiamo alla notizia del giorno, che riguarda ovviamente la candidatura di Di Maio. La prima volta che vengo qui ed è una grandissima emozione, ma soprattutto è un grande momento anche legato alla nostra religione di fede, e io sono un fedele, quindi mi faceva veramente piacere esserci. L'ho vissuta prima di tutto come fedele e poi come istituzione. Allora, Operazione San Gennaro, titola Massimo Grallimellini nella prima pagina del Corriere della Sera sul suo caffè. E perché è successo questo? La voce che avete sentito era quella di Luigi Di Maio, neocandidato del Movimento 5 Stelle, candidato quasi unico. Ebbene, ha cominciato il suo tour baciando il sangue del santo. Osservata dalla prospettiva di un grillino laico, l'immagine di Di Maio, candidato premier per mancanza di prove, che bacia la teca con il sangue liquefatto di San Gennaro, scrive Gramellini, giustifica una richiesta di asilo politico all'altro mondo, dove nessuno avrà avuto il coraggio di dirlo a Dario Fo. Osservato invece dalla prospettiva di San Gennaro, la visione di un politico prono davanti alla sua ampolla è il classico déjà vu, da Gava, De Magistris, passando per Bassolino, tante sono le labbra di Masanielli devoti che attraverso di lui hanno cercato di graziarsi il cardinalone e il popolino. Osservato invece dalla prospettiva di un elettore 5 Stelle della prima ora, la mirabile scena è invece l'epilogo di un'illusione durata 10 anni. 10 anni a sperare nella rivoluzione per ritrovarsi alla fine rappresentato da un chirichetto. Joe! Vabbè, questa immagine fa abbastanza ridere, però io penso che quando Gramellini, però, quando scotenna. Va giù pesante Gramellini. No, dico che forse è un po' un'abitudine dei partiti italiani andare a pescare poi quando si può un po' nell'elettorato cattolico, no? Sì, però dai, non è la fine del mondo. Ha baciato San Gennaro, via. Due retroscena, Alessandro Trocino: il leader invita Fico, lui dice no alla guerriglia del ribelle per condizionare il capo. Sì, perché secondo quanto racconta il Corriere della Sera è guerra fredda fra Luigi Di Maio e Roberto Fico. L'ascesa del vicepresidente della Camera, unico concorrente vero in corsa per la premiership dei 5 Stelle, sta provocando un contraccolpo grave nell'assetto del movimento, e il silenzio pubblico di Fico si è fatto assordante, anche perché, spiegano alcuni deputati a lui vicini, dopo la scontata vittoria di Di Maio in piena campagna elettorale potrebbe partire una controffensiva insidiosa con presa di distanze che rischierebbero di minare l'unità, il dogma dell'unità del movimento. E poi in transatlantico si fa notare, scrive sempre Trocino, lo scarso calore col quale Di Battista sta appoggiando Di Maio, segno per alcuni di un raffreddamento fra i due. ma ambienti vicino a Di Maio fanno sapere che non saranno accettate prese di distanza e imboscamenti. Se saremo attaccati sarà guerra. L'arma in mano al vicepresidente della Camera è quella che deriva dalla contestata carica di capo politico, che gli consente di scegliere collegi e candidati e soprattutto di nominare il collegio dei provvedimenti che può sospendere iscritti e portavoce decidendo su sanzioni ed espulsioni. Quindi vedete che è un passaggio molto grosso. Anche Massimo Franco fa la sua nota sempre sul Corriere della Sera: l'impressione è che per la prima volta Grillo percepisca la potenziale fragilità e consenso costruito negli ultimi anni. I sondaggi continuano a dare il Movimento 5 Stelle in crisi. Allora, su Repubblica, perché passo a Repubblica, c'è un'altra storia importante che riguarda la candidatura. Intanto, va bene, visto che è andata bene ieri, leggiamo ancora oggi LK: enfant prodige che ha baciato il sangue di San Gennaro, dice il primo omino. E il secondo dice: e subito dopo ha azzeccato un contingentivo. Miracolo, ma è cattiveria, questa è solo cattiveria. E il candidato, uno degli sfidanti, mi dicevi, Gio, Vincenzo Cicchetti, 62 anni, imprenditore. Luigi è solo un fuoricorso, ma mia moglie voterà per lui. Racconta di essere rimasto ammaliato a Mauro Favale, Repubblica, al Movimento, perché ha sentito per radio Grillo, vedi la radio quanto conta, che diceva: voglio tutti i ragazzi laureati con 110 e lode, e dice adesso candida proprio un fuoricorso. E va bene. Ma dicevo, esce la prima biografia amica, l'ha pubblicata l'editore Aliberti, l'anticipa su Repubblica, Concetto Vecchio. Si chiama Di Maio Chi? Vite, opere e missioni del politico più bersagliato d'Italia. E racconta Concetto Vecchio su Repubblica: ha frequentato la scuola materna delle suore Orsoline. Sin dalle elementari Luigi è quel che si dice un alunno modello, scrive con prosa da fanfara Paolo Picone, l'autore della biografia edita da Liberti. Viene iscritto alla scuola Mazzini, uno dei migliori istituti della città, e continua il suo brillante percorso di studi anche nei 3 anni e le medie. Frequenta la classe sperimentale latino, gli viene affidato forse il suo primo compito di grande responsabilità, addetto al fondo cassa della classe. E in questo periodo della sua vita, che Luigi si imbatte anche con una certa soddisfazione in due letture non proprie per le adolescenti, legge la storia d'Italia di Montanelli e le biografie di Pertini, e a quel punto il lettore penserà, scrive Vecchio su Repubblica, a quel punto il lettore penserà che il piccolo Luigi sognasse di fare come minimo l'assessore. Invece il suo sogno di allora era fare il poliziotto. Poi la grande trafila, leggete tutto, insomma, il liceo, lo Stuart famoso a Napoli, e poi quella idea quando si candida alla politica, la prima volta prende 51 voti e non viene eletto. Se fallisco vado a fare il lavapiatti a Bruxelles. La prima candidatura al Consiglio Comunale del 2010 è un fiasco, 59 voti, racconta Vecchio. Ne bastano 189 alle parlamentari online del dicembre 2012 per essere rimesso al secondo posto nella lista in Campania, pensate, dietro Fico, cioè quello che ha superato, vi dico io, che raccolse 228 voti. Per la gioia non dormì due notti. E vabbè, tutta da leggere questa. Non vedo l'ora di biografia. Ma da leggere davvero, perché la biografia, dici? Dai, non dirmi che adesso vai a prendere la biografia. Io sì, per lavoro, perché devo conoscere, ma anche molti italiani. Vabbè, per lavoro ti pagano, la prendi perché ti pagano, no. Cioè, per lavoro. Sì. Allora, invece, l'altra cosa sorprendente è i like, perché Virginia Raggi ha raccontato, sapete che comunica attraverso la pagina Facebook, e praticamente ha raccontato Virginia Raggi che si affida ai like per scegliere i progetti, cioè lei metterà i progetti sulla sua pagina Facebook o delle proposte, delle idee, oppure qualcuno potrà mandarli, e quello che raccoglie più like viene prodotto. Lo strumento col quale misurare la validità delle proposte avanzate dai cittadini sulle piste ciclabili, le funivie, il trasporto alternativo, racconta Repubblica a pagina 6. Più mi piace riceverà l'idea partorita dall'anonimo romano, più sarà considerata buona e addirittura meritevole di entrare fra le azioni del governo cittadino. Avete capito? È importante. I like, mandateci anche a noi dei like, dai. Ci fermiamo ancora un attimo, strade, e torniamo. Mattino. Telese, dedicare una mattinata intera a ridicolizzare Grillo e il suo movimento mi sembra eccessivo. Marco da Roma. Un altro nostro ascoltatore dice: meglio Di Maio, Salvini, Meloni che il ballista Renzi, continuate pure a sparlare, rimarrete delusi e sconfitti. Ferillo. Allora, noi raccontiamo tutto Ferillo. Raccontiamo tutto di tutti, luci e ombre, e ci dice che siamo grillini, che siamo salviniani, che siamo renzini. No, noi siamo quelli che vi raccontano ogni giorno quello che volete sapere e anche forse qualcosa di quello che non volete sapere. Ma allora partiamo dal grande tema, la campagna elettorale, le promesse. Vi ricordate Albanese? Per chiunque, qualunque, chi che sia, io vi prometto pilu e prosperità, e cioè più pilu per tutti! Memorabile, indimenticato, e perché ve lo cito? Perché oggi, pensate, il fondo del Corriere della Sera di Sabino Cassese è dedicato a un grido di allarme: assunzioni elettorali, la grande abbuffata degli statali. Guardate se il primo quotidiano italiano dedica il suo fondo a questo, vuol dire il rischio c'è. Annuncio preoccupante e pericoloso, quello del sottosegretario per la funzione pubblica che ha lanciato un grande progetto per il paese. Consiste in 500.000, ma potrebbero salire a 600.000 di posti di lavoro nei prossimi 4 anni nelle pubbliche amministrazioni. L'annuncio, scrive Cassese sul Corriere, è stato seguito da un coro di consensi sindacale e ha il sapore di una promessa preelettorale, non fatta però dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come dovrebbe essere, data la sua entità. Chi ha fatto l'annuncio non è consapevole del danno che un tale subitaneo allargamento dei ranghi pubblici potrebbe fare alla pubblica amministrazione. E allora, mentre c'è questo grido di allarme di Cassese, doveroso riportarlo, c'è anche un'intervista di una persona seria, il ministro Calenda. E Calenda spiega: incentivi sì, ma ripartire con più investimenti dei privati. Infatti il ministro Calenda dice che non sarà una manovra elettorale, e spiega in un'intervista a Mario Senzini sul Corriere della Sera che le 3 priorità della politica economica su cui bisogna concentrare risorse sono investimenti, internazionalizzazione e giovani. La vicenda TIM, se annuncia, spiega, serve il rispetto delle regole. Insomma, è molto interessante questa chiacchierata, ovviamente vi diamo dei lampi. Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, spiega come sarà la legge di bilancio che il governo si appresta a presentare in Parlamento. Anche in futuro, dice il ministro, la strada da seguire, quasi obbligata, sarà quella dei sostegni agli investimenti privati. Aggiunge: ottimista sulla possibilità di un accordo con la Francia per Fincantieri e deciso a far rispettare le regole sui poteri speciali dello Stato anche nel caso TIM Vivendi. Gli investimenti, aggiunge, servono per non perdere le leadership del manifatturiero, per recuperare la produzione che negli anni della crisi è tracollata con un calo del 25%, di cui solo 6 punti sono stati recuperati. Le esportazioni, aggiunge Calenda, continuano a tirare, facciamo il 7% in più sull'anno scorso, ma le imprese che esportano sono ancora troppo poche e il problema dei giovani, del lavoro e delle retribuzioni è drammatico. Il paese è ripartito, ma la crisi non è ancora alle spalle. Insomma, una mezza paginata, l'intervista di Senzini è tutta da leggere e secondo me dà bene la prospettiva di le luci e ombre che ci sono anche sulla manovra. Ci sono grandi segnali di ripartenza, come aggiunge il ministro e come ci dicono tanti dati anche sui giornali di oggi, ma c'è anche bisogno di stare attenti, perché nulla è consolidato e nulla è sicuro. Allora, eravamo alla politica e altre due cose importanti. La candidatura di Ultimo, pensate, Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, pagina 8, ci racconta che Virginia Piccolillo ci racconta l'obiettivo del partito di Giorgia Meloni è quello di candidare il capitano Ultimo alla corsa alle politiche. La Russa ci è sempre piaciuto, le inchieste ci è sempre non piaciuto. Cambiamo idea. Dove hai trovato? Oh, guarda, miracoli di regia. Fammelo risentire. Ci è sempre piaciuto. La colonna sonora della piovra, perché stiamo parlando del protagonista di tanti arresti, il capitano Ultimo ci è sempre piaciuto, per noi è un simbolo, dice la Russa, è quello che ha arrestato il capo della mafia, il nostro giudizio su di lui è sempre stato più che positivo, lo abbiamo candidato e votato anche alle elezioni del capo dello Stato, certo non abbiamo cambiato giudizio in questi giorni per qualche notizia giornalistica, sì, perché Ultimo è sotto accusa in questo momento e quindi tornerebbe una candidatura politica di riabilitazione come fu quella, che ne so, di Tortora, come fu quella di Toni Negri del Partito Radicale, poi lui scappò e non andò bene, come fu quella di Domenico Modugno, insomma gli uomini simbolo che vengono portati in Parlamento magari anche quando sono oggetto di polemica e di discussioni controverse. Vi dicevo di Di Maio, anche per rispondere ai nostri ascoltatori, c'è un'intervista interessante, questa darà lo stupore, darà un brivido a qualcuno, perché Carlo Freccero sulla Stampa dice: Luigi Di Maio è perfetto perché è senza carisma, è l'uomo medio nel reality grillino. Secondo Carlo Freccero, intervistato da Ilario Lombardo sulla Stampa, lui è il Carlo Conti del Festival di Sanremo applicato alla politica, un uomo in cui tutti si possono identificare, comprensibile a chiunque, lo definirei un software interscambiabile. Dai, è una perla, Freccero ogni volta che parla ci regala qualcosa di geniale. Questa è apologia o detrazione? È qualcosa che spiega perché è saltato fuori lui e non qualcun altro. Allora, è interessante su Repubblica, pagina 9, mi ero segnato il pezzo della Casadio, sì, perché la legge elettorale, lo so, qualcuno dice no, la legge elettorale di mattina mi indispone, ma c'è una nuova proposta, spiega Giovanna Casadio, il PD tenta Silvio, 231 collegi per aiutare le alleanze, ebbene questa proposta viene stroncata dal corsivo che sta a fianco di Stefano Folli, molto importanti, sono già contrari alla Lega, già contrari al 5 Stelle e dice, scrive Folli con molta brillantezza, le alchimie nascoste dietro la maschera del Latinorum, il nuovo Rosatellum, se dovesse passare la riforma garantirà alle segreterie dei partiti il controllo su gran parte degli eletti, e questo vi devo dire è una schifezza. È proprio questo, io penso questo, è proprio il tentativo di bloccare tutto senza passare per la volontà degli elettori, degli iscritti, è proprio questo che deve essere respinto e quindi il cuore di questa proposta, secondo Repubblica, si annida in questo dettaglio. Allora, stiamo avvicinandoci alle strade, però voglio leggervi un'ultima cosa molto importante, riguarda il Fatto, che ci dà una controverità sulla vicenda famosa della PM Lamusti che aveva detto stiamo arrivando a Renzi, è proprio quello, no? L'accusa a Scafarto. Ebbene, sotto questo titolo di prima, Riecco Porcellum e Nominati, con cui anche il Fatto fa capire che la legge non gli piace, ecco qui, nella verbale del complotto la bomba non era su Renzi. Colpo di scena, due giorni discutiamo che questi poliziotti hanno detto a una PM guarda c'è una bomba che arriva su Renzi, adesso leggendo i verbali il Fatto dice la bomba era rappresentata dall'indagine condotta dal NOE dai carabinieri di Ultimo che mentre mettevano sotto accusa le Coop Rosse e il mondo vicino a Massimo D'Alema, peraltro mai indagato. Quindi, controordine, non c'è niente, era una balla, ve la raccontiamo così, questa inchiesta è veramente molto torbida e difficile da capire, invece atti retrodatati per gli appalti Expo, processate Sala, questa è l'altra notizia del Fatto, il pezzo di Barbacetto a pagina 3. Adesso ci fermiamo davvero per le strade in diretta, me! Quattro mattino. Era l'utopia negativa questo Blade Runner che ritorna oggi con il seguito, ma è anche il segno del tempo fosco, cupo. ONU, il manifesto di Trump, dal presidente americano un duro attacco alla Corea del Nord. E tutte le prime pagine dei giornali sono dominate da questo titolo. Il Corriere della Sera, pronti a distruggere la Corea, le minacce di Trump, niente accordi con l'Iran, agiremo in Venezuela. La Stampa, Trump Trump-Macron, duello all'ONU. Tutti insieme contro i dittatori, ma ci sono, racconta il quotidiano di Torino, due visioni diverse su Stati Uniti ed Europa. E allora vado a leggere da Repubblica il manifesto di Trump, ovviamente zampaglione sul giornale di Largo Fochetti. Pone l'accento su questo: Trump contro Corea del Nord e Iran, Kim attacca, noi lo distruggiamo. Il presidente degli Stati Uniti, racconta Arturo Zampaglione, fa un discorso sovranista, chiede la riforma dell'ONU, mentre Macron presenta una visione alternativa su Pyongyang, Teheran e l'intesa sul clima. È uno spartiacque molto difficile in cui per la prima volta si torna all'allarme, all'allerta, al rischio di una guerra mondiale, come ai tempi di in cui Kubrick cesellava il mitico personaggio del dottor Stranamore. Ma allora è possibile che posseggano una cosa simile? I mezzi necessari sono alla portata di qualsiasi potenza nucleare, per quanto piccola sia. Ci vuole solo la volontà di farne uso. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare. E sulla prima pagina del Fatto un'incredibile polemica. Massimo Fini, firma eccellente, si lancia contro il sindaco di Firenze Nardella e la sua ordinanza anti-prostituzione contro i clienti e le prostitute. Il grido di invocazione di Fini sulla prima pagina del Fatto è: il mestiere più antico, lasciateci almeno il puttantur. Non vorrei che ci fossero sguardi indiscreti. Sono una persona abbastanza nota. Quanto vi prende lei? 100 bocca, 150 completo. No, scusi, c'è un parametro illogico in questa sua richiesta. Cioè, non riesco a capire come un semplice boccaglio possa costare il 35% in meno rispetto al rapporto completo. Qua mi fa sorgere due dubbi. O lei, dal punto di vista orale, è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi, E allora la crudezza, ma anche la satira potente, vero Gio, di Carlo Verdone. C'è un parametro illogico in questa richiesta. Con un'ordinanza, scrive Fini, il sindaco di Firenze Nardella ha istituito il divieto di chiedere o accettare prestazioni sessuali a pagamento. Il cliente è punito con l'arresto fino a 3 mesi e una multa da 200 euro. Le sanzioni si applicano anche se non c'è stato nessun rapporto sessuale. La prostituta invece rimane indenne. Per la prima volta in Italia, almeno a Firenze per ora, la prostituzione diventa reato. Il sindaco Nardella si è avvalso di un recente decreto del ministro degli interni che consente ai sindaci di emettere un'ordinanza contro coloro che ottengono prestazioni sessuali a pagamento. Allora è importante questa notizia. Se non altro per il salto di qualità, non è una legge dello Stato ma è un'ordinanza del sindaco. Prego. È una cosa che avevamo fatto noi, è una questione economica. No, Tremonti, taccia. Il lavoro più antico del mondo, dai. Però vi voglio dare anche un altro punto di vista, quello di Avvenire, che esulta per questa ordinanza. Le schiave bambine di Firenze funzionano i divieti antitratta. Pezzo di Nello Scavo su Avvenire che segnalo, ma è giunto il momento della mitragliata. Allora, non ci crederete, io sono un appassionato di questi temi, Berlusconi è solo il pretesto, ma qua si parla di nuovo di ingrassare, di dimagrire, ed è arrivato il comunicato ufficiale di Forza Italia. Lo avete sentito qui, l'M da noi che aveva rivendicato, e l'ho fatto anche in altre radio, il merito. M'hai provocato e io ti distruggo adesso anche. Il merito di aver fatto dimagrire Berlusconi, fantastico questo Alberto Sordi, Maccarone, io me te magno, aveva detto che Berlusconi ha dimagrito grazie alla pasta asciutta la mattina con aglio e olio. Ebbene, è sceso in campo Zangrillo e con un post su Facebook ha detto: dispiace dover intervenire a questi bassi livelli, ma sono obbligato a smentire in modo categorico le incredibili balle di Lemme. Sul Corriere della Sera, pezzo di Simone Ravizza. Berlusconi non è dimagrito mangiando pasta, ma in realtà facendo una camminata quotidiana di mezz'ora, 1 chilometro ogni 12 minuti. E poi dopo a seguire con un'ora di piscina e un'alternanza di nuotate e di esercizi acquatici. Questa è la verità, finalmente, su come Berlusconi ha perso 10 kg, ma è giusto che dicessi questo. Sulla verità addirittura un paginone, tutte le bugie su Fazio e sul suo stipendio. Alfredo Arduino a pagina 25 sintetizza in 5 bufale quelle che secondo lui sono le bugie di Fazio sul suo contratto. La produzione è affidata a una ditta di cui il conduttore è socio al 50%. L'onorevole Anzaldi della Vigilanza Rai si chiede quanto avrebbe risparmiato la TV di Stato usando prodotti interni. Povera Rai, è il titolo. Allora, lo denuncia Libero ovviamente con una linea politica, però è un fatto sicuramente che meritava un titolo comunque la si pensi. Ci siamo arrivati, racconta Alessandro Gonzato, una classe di soli stranieri, è il caso di una prima elementare a Padova e i genitori si lamentano, i nostri figli come faranno a integrarsi? Sono gli stranieri che si lamentano di essere ghettizzati, caro Joe. Allora parliamo di soldi sempre, bene, non so se sapete che cosa succede con le ex centrali atomiche, voi dite no ma perché ancora costano, sì, il Sole 24 Ore è una pagina interessantissima, ci racconta che lo smantellamento diventa ancora più caro di quello che era stato calcolato, Jacopo Giliberto racconta, inviato a Vienna, che sale da 6.8 a 7.2 miliardi il costo stimato da Sogin per dismettere gli impianti. Vi sembra una cosa possibile? Il piano italiano per smantellare le quattro vecchie centrali atomiche spente 30 anni fa e per liberarsi dall'ansia delle scorie. Divise ed Elmetti, lo avete sentito alla Zanzara, il suo grido di rabbia, Jonathan, si chiama Jonathan, scusate mi è sfuggito il nome, si chiama Jonathan Targetti, è uno dei più grandi collezionisti e venditori di divise militari e organizza una fiera a Milano con 20.000 spettatori e dice con la legge Fiano finirei in carcere. E la cosa divertente però è che dice di essere un elettore del PD e un boldriniano. Sulla verità a pagina 25 e ieri, se lo avete sentito alla Zanzara. E infine Ryanair. Allora, Ryanair, contro i demonizzatori di Ryanair, se volete un'opinione controcorrente, quella il Foglio che si schiera a favore della compagnia e dice non è niente di grave, è solo un infortunio, è giusto non penalizzare Ryanair per questa vicenda. E invece la Baccaro sul Corriere della Sera, pagina 23, spiega che è la punta di un iceberg che è uscito fuori con l'avvertenza dei piloti, sottopagati e si sta esaurendo il ciclo di produzione delle low cost. Anche oggi abbiamo finito la rassegna stampa, arriva il momento dei cani e gatti fra poco, ma dopo il giornale radio e le strade.